Salvadanaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, da Radio 24, da Salvadanaio. Oggi ci occupiamo della notizia che molti di voi hanno trovato in quasi tutti i giornali questa mattina, ma sicuramente i diretti interessati ne sapevano qualcosa di più già da diverse settimane. Allora, cosa succede da oggi? Scatta da oggi la tanto attesa moratoria sui mutui per le famiglie in difficoltà. Frutto dell'accordo siglato fra ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e Associazione dei Consumatori a metà dicembre, questo accordo prevede la sospensione delle rate sui mutui appunto immobiliari per 12 mesi, quindi a partire da oggi basterà, se se ne ha naturalmente diritto e titolo, presentare la domanda allo sportello della propria banca, anche se non tutti gli istituti di credito hanno aderito, e l'intesa appunto stabilisce precise regole per vedere accertata, come vi dicevo, la propria richiesta. C'è tempo fino al 31 gennaio del 2011, naturalmente gli eventi sfavorevoli a condizione dei quali si può richiedere questa moratoria devono verificarsi fino a dicembre di quest'anno. Il provvedimento, si calcola, potrebbe interessare fra le 110 e le 130 mila famiglie italiane. Come vi dicevo, ci sono dei parametri generali che bisogna soddisfare per avere diritto alla sospensione, ma alcune banche sono state un po' più generose. Oggi abbiamo interpellato due di queste, Banca Sella e BNL Gruppo BNP Paribas. Sentiremo appunto rispettivamente le due figure responsabili appunto di questo settore, Alessandra Pissini e Alessandro D'Agata, e con noi questa mattina anche il nostro Maximilian Ancellino, Plus 24 del Sole 24 Ore, che non fa da settimane che scrivere di tutto questo. Maximilian, bentornato. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Poi saluteremo anche gli esponenti appunto del settore bancario con noi questa mattina, ma intanto vi ricordo il numero verde per intervenire, che è l'800240024, oppure ci potete scrivere al 349-238-6666. La prima giornata di mercato per i mercati finanziari di febbraio è partita male. Questa mattina sugli indici del vecchio continente abbiamo avuto prestazioni in calo di quasi un punto percentuale, poi a metà mattinata rimbalzino, adesso è riuscito a portarsi in territorio positivo il listino tedesco, più 0,13%, anche quello di Londra, più 0,14%, rimane ancora leggermente negativa Parigi, meno 0,08%, rimane negativa anche Milano, meno 0,24% sul FTSE MIB, e su Milano le vendite stamattina stanno interessando un po' tutti i settori, in particolar modo però Tenaris è fortemente penalizzata dagli investitori, il titolo perde 4,5 punti, ci sono alcune anticipazioni di stampa sui conti del 2009 che evidentemente non sono piaciute, queste anticipazioni, il titolo viene penalizzato. C'è anche ovviamente il petrolio che scende un po' su tutti i titoli a vario titolo, ricompresi nel settore energetico, c'è un calo quest'oggi, il petrolio è a $72, anche grazie al dollaro che si sta rafforzando sull'euro a 1,3911, questo è il cross in questo momento. Gli altri titoli in calo: Telecom perde l'1,94%, Barclays ha ridotto il cosiddetto target price, il prezzo obiettivo, e quindi per il titolo oggi discesa anche di quasi 2 punti per Bulgari, Exor meno 1,34, Geox meno 1,17, Saipem meno 0,8%. Segno più invece per il Banco Popolare, che sta guadagnando 2 punti, il gruppo ha lanciato una maxi obbligazione convertibile fino ad 1 miliardo, si dice, adesso vedremo quanto sarà l'ammontare definitivo, domani verrà stabilito definitivamente. CIR più 1,77, Popolare di Milano più 1,75, abbiamo un rialzo di oltre 1 punto anche per Parmalat, Intesa San Paolo e Atlantia, la ex Autostrade. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Da oggi scatta la moratoria sui mutui. La moratoria sui mutui diventa operativa. Da oggi, infatti, è possibile presentare la domanda presso la propria banca per vedere sospese le intere rate o solo la quota capitale del proprio mutuo. Fino ad ora, gli istituti che hanno aderito a questa iniziativa targata ABI sono circa 90, e a fare la parte del leone sono state le banche di credito cooperativo, le casse rurali e quelle maggiormente legate al territorio. Mancano ancora le adesioni dei primi gruppi bancari italiani, anche se hanno iniziato a farsi avanti i primi istituti di dimensioni medio-grandi. Oltre ad aver aderito, alcune singole banche hanno già previsto delle condizioni migliorative per la clientela rispetto alle linee guida elaborate dall'ABI, assieme alle associazioni dei consumatori. Dall'estensione della moratoria anche ai prestiti all'allungamento del periodo di sospensione. Ma c'è anche chi ha deciso di eliminare il tetto massimo al valore del mutuo o di applicare la sospensione non solo a licenziati e cassintegrati, ma anche alle famiglie che hanno visto aumentare il numero di componenti per la nascita di un figlio o in caso di adozione. Allora, sì, stavamo ragionando con Maximilian Cellino, microfoni spenti, che poi tutto sommato alla fine, anche se per qualche banca si è saputo proprio con il rush finale venerdì scorso, tutte le grandi banche hanno aderito a questa moratoria, appunto le grandi banche, qualcuna estendendo i parametri per chiedere questa sospensione, altre invece sono state abbastanza ottemperanti alle linee guida del piano famiglie dell'ABI. Unicredit per esempio lo ha comunicato proprio venerdì scorso in tarda serata. Questa mattina Monte dei Paschi ha fatto sapere che lo scorso anno ha sospeso oltre 10.000 mutui grazie al suo piano di sostegno alle famiglie gravate appunto dalla crisi economica. Il proprio piano si chiama Combatti la crisi, e però adesso c'è anche appunto l'adesione alla moratoria dell'ABI e tante altre banche. Allora Maximilian, punto generale della situazione, ci siamo, da oggi si parte, saranno pronti agli sportelli ad accogliere le domande delle famiglie in difficoltà? Ma hanno detto di sì, insomma, aderendo hanno detto di sì, e dovrebbero avere pronti i moduli. La cosa che mi preme ricordare ancora una volta è che da oggi si può presentare la richiesta. La sospensione non sarà immediata, perché la banca dovrà valutare se esistono i requisiti. Tra l'altro, una cosa altrettanto importante da dire è che chi vuole la sospensione deve presentare ovviamente della documentazione che attesti il fatto di aver perso il lavoro, di essere in cassa integrazione o di aver perso il coniuge che magari era intestatario, esatto, purtroppo del mutuo. Esatto, poi e quindi qualche famiglia probabilmente sarà già pronta, perché già nel mese scorso ha letto sui giornali cosa serviva, però probabilmente ci vorrà un pochino di tempo. Se le famiglie saranno tempestive, le banche e tutto è a posto, le banche potranno dare l'ok alla richiesta in tempi abbastanza rapidi, poi dovrebbero, una volta dato il via libera, insomma accettata la richiesta di sospensione, entro 45 giorni dovrebbero procedere alla sospensione vera e propria della rata. Tenete presente che le rate in generale funzionano in questa maniera: adesso in questo mese di febbraio vengono contabilizzate le rate che voi andrete a pagare il primo di marzo, per cui magari a febbraio non ci siete, non ce la fate in tempo, a marzo continuate a pagarvela. L'impressione è che anche se le persone saranno molto tempestive, prima di aprile maggio non vedremo probabilmente le prime sospensioni. Certo, poi ci rendiamo anche conto di quello che potrà accadere agli sportelli adesso, anche qualche volta per dare un attimo conforto alle banche, perché sennò sembra sempre che ce la prendiamo con loro per tutto, ma chiaramente ammettendo che tra oggi, domani, dopodomani magari ad uno sportello di qualsiasi banca si presentano, che ne so, 10, 20, 30, 50 famiglie che vogliono chiaramente la sospensione, è un attimo per imbastire l'istruttore e valutare, fare tutte le valutazioni, chiaramente mettiamoci anche nell'ordine delle idee che qualche giorno è necessario anche per le banche. Allora, parlavamo prima degli istituti che hanno avuto così un moto di maggior generosità rispetto alle condizioni generali del piano famiglie. Fra queste c'è BNL, gruppo BNP Paribas. Buongiorno dottor Alessandro D'Agata, responsabile del mercato retail di questo gruppo bancario. Dottor D'Agata, buongiorno. Allora, abbiamo interpellato BNL perché abbiamo appreso appunto la settimana scorsa che il gruppo ha intenzione, oltre che dare alle famiglie in difficoltà l'opportunità di sospendere il mutuo, anche di sospendere eventualmente prestiti in corso. Dottor D'Agata, allora questa è la condizione generale, però mi pare di capire che siete disponibili a sospendere il prestito, ma alla medesima famiglia in difficoltà che chiede anche la sospensione del mutuo. Allora, abbiamo fatto alcuni interventi migliorativi rispetto all'accordo generale. Allora, abbiamo eliminato il limite di reddito per il mutuo, il limite di accesso di reddito alla moratoria. Abbiamo eliminato il limite massimo superiore del mutuo per accedere alla moratoria, e l'abbiamo allargato anche ai prestiti personali. Sicuramente per tutti i prestiti personali dei nostri mutuatari e anche per quei clienti che hanno solo il prodotto di prestito, L'importante è che abbiano finanziamenti solo con noi e non con altre istituzioni finanziarie. Ho capito. E questo è un punto. Ho visto anche, e ci stavamo facendo questa domanda con Maximilian Cellino, ho visto che voi avete scelto la modalità di sospensione del pagamento solo della quota capitale, non dell'intera rata del mutuo. Come mai questa decisione? Sì, riteniamo molto importante che il cliente e la banca mantengano comunque sempre un rapporto continuativo, ancorché con una rata ridotta significativamente, diciamo, perché viene meno la quota capitale e viene portata alla fine del finanziamento. Però è estremamente importante continuare a mantenere il ripagamento nel debito e soprattutto, diciamo, mettere l'accento non tanto sul periodo di sospensione, ma anche a costruire una rata sostenibile nel tempo alla fine del periodo di moratoria. Quindi l'accento su cui abbiamo battuto molto nella formazione della nostra rete è la riduzione della quota nei 12 mesi, quindi mantenendo solo la parte dei soli interessi, ma soprattutto la costruzione assieme al cliente di una rata sostenibile del tempo del 13° mese alla fine del periodo di moratoria. Ecco, dottor D'Agata, però come lei sa, come funziona un piano di ammortamento, quello tipico italiano, per chi per esempio, non so, ha un mutuo a tasso variabile e costruisce un piano di ammortamento alla francese, nei primi anni di restituzione del prestito versa solamente o prevalentemente la quota di interessi, che se è per un mutuo sottoscritto in tempi assolutamente recenti è molto alta, per cui che tipo di sollievo può avere una famiglia che magari ha necessità invece di sospendere interamente la rata? Siete disposti poi eventualmente nel contesto dell'ottica generale anche a rifare delle valutazioni individuali? Sì, allora, beh, diciamo come principio generale, però da analisi nostre, ma analisi svolte anche dal dottor Cellino che è in studio, la gran parte dell'adesione ce l'aspettiamo per famiglie che abbiano una riduzione parziale della capacità di reddito, quindi persone che vanno in cassa integrazione. Quindi a fronte di questa riduzione parziale della capacità di reddito ci sarà una riduzione parziale ancorché importante della rata, 25-30%. In più devo aggiungere che se sono mutui giovani abbiamo fatto da poco assieme ai clienti un'analisi seria della capacità di rimborso di questi clienti, che comprende anche la solidità dell'azienda nel quale lavorano, quindi riteniamo che non siano tanti questi casi. Allora, detto questo, questo è il criterio, diciamo, l'adesione generale alla moratoria. La banca è sempre disponibile a trattare situazioni individuali anche con soluzioni più decise, più drastiche, ma mirate alla risoluzione del singolo problema. Allora, adesso saluto intanto, perché siamo riusciti a raggiungerla. Questa mattina abbiamo un po' di problemi con i telefoni, non so se dipendono da noi o dai nostri o da quelli dei nostri interlocutori. Alessandra Pissinis, responsabile commerciale crediti del gruppo Banca Sella. Bentornata, Salva Danaio. Grazie, buongiorno a tutti. Sentivamo tra l'altro anche un fruscio terribile con il collegamento con BNL, magari adesso cerchiamo di ripristinarlo, perché tra un minuto abbiamo subito la pausa. Allora, dottoressa Pissinis, comincio la mia chiacchierata con lei fra qualche istante. Intanto a bruciapelo chiedo a Maximilian, gli rivolgo una domanda che ci fa un ascoltatore, Gerardo, al 349-238-6666, l'istruttoria ha un costo, è gratuita? Mi pare che far la domanda per la sospensione non abbia nessun tipo di implicazione. E nessun onere, in sostanza. No, non ha nessun onere, va ricordato, l'abbiamo già fatto ma vale la pena ricordarlo, che nel momento della sospensione, durante i 12 mesi di sospensione, gli interessi continuano a maturare. E allora poi quindi non è una soluzione del tutto gratuita. Esatto, non solo, è anche un'altra cosa. Un mutuatario deve continuare a pagare, a meno che non stabilisca diversamente, le varie assicurazioni che ha insieme al mutuo. Perché quelle non vengono sospese, a meno che le banche non decidano di sospendere anche quelle. Anche però quelle. È una cosa molto più complicata. Ecco, e con Maximilian Cellino ce l'avamo distratti, perché oltre ai mutui, entrambi ce ne abbiamo già uno che ci grava sulle spalle. Non chiederemo la moratoria, probabilmente, però, se andiamo avanti con queste nostre idee di ristrutturazione allucinante delle nostre case, probabilmente andremo alla stazione centrale a chiedere qualche cosa con il cappello in mano. Maximilian, adesso, a parte tutti gli scherzi, naturalmente, questa mattina parliamo invece delle famiglie che sono in difficoltà e che da oggi hanno l'opportunità, grazie a quanto contempla il piano famiglie dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, di andare alla propria banca e se le proprie condizioni reddituali sono profondamente cambiate nel corso degli ultimi mesi o magari cambieranno quest'anno, può appunto chiedere, queste famiglie potranno chiedere la sospensione del mutuo, condizioni diverse a seconda della banca con la quale si ha il contratto, ma vale la pena comunque fare una chiacchierata con il proprio direttore, perché a prescindere dalle condizioni generali dell'accordo, sicuramente ogni banca può anche stabilire un trattamento individuale al cliente. 800240024 è il numero verde per i vostri interventi. Allora, prima di sentire Alessandra Pissinis di Banca Sella, sentirei Pasquale da Pavia, che è in attesa da un po', perché a quanto pare ha già chiesto alla sua banca la sospensione. Pasquale, ma non l'hanno convinta molto le condizioni che la banca le ha proposto. Buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la possibilità che mi è stata data e complimenti per la trasmissione. Grazie Pasquale. Ecco, io volevo dire infatti che circa un anno fa mi ero rivolto già alla mia banca, se posso citarne il nome. Proviamo, così magari sappiamo anche che tipo di piano ha fatto. Unicredit Banca. Sì, ha fatto insieme banca, 2009, sì. Che ho fatto appunto il mutuo nel 2006, poi però per questioni familiari ho dovuto aggiungerci anche un finanziamento personale, questo con una finanziaria. E quindi tutto ciò mi ha portato, come tanti altri, a recarmi in banca per avere la sospensione. Sì. Però lì col direttore di banca mi è stata proprio mi è stato detto che per avere diritto bisognava avere in mano tre discorsi, cioè per rientrare a far diritto bisognava essere separati dalla moglie intanto, poi perdere contemporaneamente il lavoro. E poi c'era un'altra opzione che proprio secondo me era abbastanza scandalosa come cosa, perché dico, metterle insieme tutte e tre mi sembra quanto impossibile. Ma infatti anche a me, perché da quello che so io praticamente la banca chiede che si verifichi uno di questi eventi e quindi a lei le chiedevano tutti insieme. Tutte e tre insieme. Qual è la terza opzione? E questa non me la ricordo, perché già di quelle due veramente io ho detto guarda. Vabbè, può esserci la cassa, perdita del lavoro, separazione, decesso, ma voglio dire che si verifichi tutte le, se c'è un decesso c'è una separazione inevitabile, ma adesso a parte gli scherzi. E quindi Pasquale non l'hanno accontentata. Sì, unico reddito, moglie, due figli a carico, rata di mutuo, rata di finanziaria, mi sembrava veramente... E il problema, tutto, grazie, grazie Pasquale, Maximilian, il problema è che se anche ci andasse adesso, comunque questo ascoltatore ha mantenuto, da quello che capisco, il posto di lavoro, il problema è che non... Beh, no, posso... ho ancora Pasquale? Sì, sì, ci no, sono. Lei ha cambiato le sue condizioni reddituali da negli ultimi due mesi, nel senso ha perso il suo lavoro? Per fortuna ancora no. Quindi... ha proprio bisogno di fare... Il problema è che la moratoria e la sospensione... Il caso di Pasquale è emblematico. Anche senza aver avuto uno di quegli eventi che indica la moratoria, la perdita del posto di lavoro, o la cassa integrazione, o la morte, o in punto un infortunio grave del sottoscrittore, ci sono persone, famiglie, che chiaramente hanno bisogno. Ed è per questo che da mesi continuiamo a dire, a scrivere, a dire anche da questi microfoni, che le banche, al di là dell'adesione alla moratoria, devono cercare di essere flessibili. La rigidità è la cosa peggiore. Una persona si presenta in banca e ti dice guardate, io ho bisogno, non ce la faccio a pagare, e questa persona la si deve aiutare in tutte le maniere. E ripetiamo ancora una volta, anche perché è nell'interesse della banca. La banca ha interesse che il cliente perfetto è quello che riesce a pagarti. Se non ti riesce a pagare, è ovvio che ha difficoltà anche la banca, bisogna andargli incontro. Ora, in questo caso Unicredit, al di là dei tanti discorsi, anche del piano che già Unicredit aveva già adottato nel 2009, insieme al 2009, bisogna anche cercare di valutare caso per caso e di andare incontro alle persone. Saranno molti come Pasquale che non hanno perso per fortuna il posto di lavoro, ma che comunque sono in difficoltà con la del MUS. Allora, io tra l'altro invito Pasquale, ci siamo spesso fatti intermediari presso le banche che conosciamo, appunto, di casi problematici che magari non vengono ottemperati allo sportello, a volte per così un po' di resistenza da parte del direttore, per scarsa voglia. Non sono tutti così, anzi gran parte delle persone che lavorano in banca voglia di aiutarvi senz'altro, però qualcuno a volte così non ha voglia di mettere mano ad una pratica che magari non è in linea con tutte quelle che sta gestendo in quel momento, e quindi allora qualche volta sponsorizziamo un po' qualche ascoltatore presso le banche. Pasquale, se ha voglia ci scriva all'indirizzo salvadanaio@radio24.it e vedremo se vediamo appunto se possiamo accontentarla. Alessandra Pissinis, Banca Sella, eccoci a lei, buongiorno. Buongiorno. Allora, anche voi, dicevo, siete stati un po' più generosi nell'applicazione appunto dei parametri stabiliti dal piano famiglie dell'ABI. In che cosa? Intanto mi pare di capire che mentre l'ABI ha detto si possono sospendere mutui fino a 150.000 euro, voi avete addirittura proposto un tetto doppio. Sì, infatti abbiamo proposto alcune condizioni migliorative anche per venire incontro a situazioni come quella che ha rappresentato il cliente di prima, quindi situazioni diciamo un po' borderline, quindi nelle quali si potevano presentare delle condizioni di accesso particolari non contemplate dall'accordo, considerato che in ogni caso le banche, già in particolare noi nel gruppo Banca Sella nel 2009 abbiamo effettuato moltissime operazioni di rinegoziazione ed anche di sospensione rate con delle iniziative negative, andando a verificare il caso specifico del singolo cliente, in cui appunto la sospensione o la rinegoziazione poteva essere una soluzione che lo accompagnava a superare questo, il periodo di difficoltà, insomma, che stava vivendo. Come condizioni migliorative, sì, appunto, abbiamo aumentato l'importo da 150 a 300.000 euro. Non considereremo alcun limite di reddito tra le condizioni di accesso. Abbiamo esteso anche ai mutui a rata fissa e durata variabile, che erano appunto esclusi dall'accordo, e non abbiamo inserito alcun tipo di limitazione per quanto riguarda la finalità o il bene concesso a garanzia, perché anche in questo caso abbiamo riscontrato delle situazioni, magari di faccio un esempio, insomma, di chiusura di piccoli esercizi commerciali o artigianali, per cui il cliente, non potendo usufruire della moratoria PMI, si poteva trovare in difficoltà, e quindi essendo una persona fisica magari poteva avere la possibilità, può avere in questo caso la possibilità di usufruire di un sistema formalizzato, che è quello dell'accordo moratoria. Visto che siete stati così generosi, dottoressa Pessini, se eventualmente, se qualcuno avesse avuto voglia di fare un investimento acquistando una seconda casa, per esempio, negli ultimi anni, si trovasse in difficoltà proprio su questa, eventualmente siete disposti anche ad ascoltare? Sì, anche in questo caso, perché noi abbiamo, in passato avevamo promosso delle iniziative anche per l'acquisto appunto di mobili diversi dalla prima casa, e ripeto, in considerazione della difficoltà del cliente, se ha una difficoltà transitoria che ha la possibilità di superare eventualmente in questo anno, gli diamo la possibilità di, appunto, verificandolo insieme, di sospendere la rata. Sempre che la sospensione sia la soluzione migliore, perché in alcuni casi, se mantiene una buona capacità di reddito rispetto al complessivo, può essere una rinegoziazione, un lieve aumento della durata che gli consente in ogni caso di superare questo periodo di difficoltà, perché concordo con altri colleghi di banca, insomma, non è la sospensione, forse avendo anche, come si è detto, dei costi specifici, perché comunque gli interessi devono essere pagati, può non essere la soluzione migliore. No, tra l'altro mi stavo chiedendo, dottoressa Pessini, visto che Alessandro D'Agata di BNL BNP Paribas ci ha spiegato le motivazioni per cui, per esempio, hanno optato per la modalità di sospensione del pagamento solo della quota capitale, non di tutta la rata, ci ha spiegato anche le altre condizioni, avendo fatto sostanzialmente un monitoraggio fra i clienti serviti, hanno appunto adottato una soluzione di questo tipo. Visto che voi siete così larghi di manica in questo frangente, mi chiedo se è perché avete la sicurezza che magari pochi clienti vi chiederanno la sospensione, quindi l'adesione alla moratoria. Non è in considerazione appunto del numero dei clienti che abbiamo scelto, che ipotizziamo appunto possano aderire a questa moratoria, ma in considerazione appunto sempre di un accordo, quindi di una valutazione singola delle condizioni del cliente. Noi abbiamo ipotizzato come comunicato il fatto che la sospensione dell'importo totale della rata o solamente della quota capitale possa avvenire in accordo con il cliente. Che cosa significa? Il cliente non deve, nel momento in cui appunto ci evidenzia le sue capacità di reddito, se ha la possibilità di mantenere il pagamento, e questo verrà visto con i nostri operatori di succursale, è corretto, tra virgolette, che mantenga questa possibilità, anche per non essere disabituato lui stesso ad avere comunque un rimborso periodico appunto degli interessi. Sì. Quindi è anche un servizio fatto nei confronti del cliente, quello di valutare la possibilità sua di poter continuare un rimborso, ancorché una scelta o l'altra non abbia costi per lui, nel senso che non c'è un ricarico degli interessi nel momento in cui debba essere sospesa la rata totalmente. Dall'altro lato, la sospensione totale in alcuni casi, se la durata del mutuo è breve, può comportare un aumento eccessivo della rata futura, quindi quella che ci sarà tra 13 mesi e di conseguenza tra 12 mesi, e di conseguenza aggravarlo ulteriormente rispetto alle sue possibilità. Quindi la scelta della sospensione parziale può essere obbligata da quel punto di vista. Quindi è una valutazione complessiva che facciamo con il cliente stesso per trovare con lui la soluzione migliore. Questo è l'obiettivo sostanzialmente della vostra iniziativa. Allora, volevo poi tornare ad Alessandro D'Agata anche per fare un ragionamento sul popolo delle partite IVA, così ormai lo abbiamo imparato a definire in questo frangente di crisi, per capire se anche queste persone possono essere ascoltate. Non sono lavoratori dipendenti, ma di fatto appunto la riduzione del volume d'affari degli ultimi mesi ha comportato una drastica riduzione anche delle entrate di queste persone, quindi come possono fare per trattare con la banca, adesso a prescindere da quello che fa anche BNL, se D'Agata, poi sentiremo anche Maximilian Cellino, ci può dare anche un'indicazione così di buonsenso per i nostri ascoltatori, in modo tale da poter dialogare con il proprio sportello in maniera costruttiva. Elena da Milano, per esempio, credo sia una di queste persone di cui stiamo parlando, giusto? Sì, buongiorno. Buongiorno Elena. Buongiorno, in verità io non ho la partita IVA, però sono comunque una freelance, lavoro sempre con contratti a progetto e comunque situazioni lavorative, diciamo, temporanee. Atipiche, chiamiamole così. Sì, adesso. E quindi io ho stipulato un mutuo a tasso fisso 3 anni fa. Sì. E comunque per farmelo stipulare, diciamo che è servita una garanzia, perché sennò non me l'avrebbero mai fatto, ma va bene. Mm-hmm. E a questo punto, siccome negli ultimi 6 mesi ho avuto comunque un calo appunto del lavoro sensibile, ho chiesto alla mia banca se era possibile venirmi incontro in qualche modo, e loro mi hanno praticamente detto che non rientro in nessuno dei loro parametri. Certo. Perché non sono cassa integrata e non ho perso un lavoro a tempo indeterminato. E io ho fatto loro presente che comunque io, cioè, le mie entrate erano drasticamente scese, quindi che avevo bisogno in qualche modo di una mano, e però non c'è stato proprio, non ci sono stati santi. Elena, ci può dire qual è la banca? Sì, io la posso dire, Banca Popolare di Vicenza. Benissimo. Allora, le popolari, anche lì, insomma, c'è stata grande disponibilità su tutto il territorio per... Sì, Maximilian. Ma io vedo, da questo punto di vista, è proprio uscito ieri o sabato, diciamo, il comunicato della Banca Popolare di Vicenza, che mi dice: sospensione applicabile a tutte le forme di lavoro autonomo o subordinato. Allora. Detto questo, questa è una delle condizioni migliorative che fa dell'accordo base la Popolare di Vicenza. Benissimo. Ora non voglio fare pubblicità alla Popolare di Vicenza, però visto che lei mi ha detto che è questa banca, io suggerirei di provare di tornare. Elena, lei ha fatto questa richiesta magari qualche tempo fa. L'ho fatta a metà dicembre, sì. Benissimo. Adesso ritorni a bomba con Esiste laboratoria. Esiste un comunicato stampa che è uscito proprio addirittura dopo l'adesione. Prima hanno detto aderiremo, poi credo che sia stato, a me personalmente è arrivato sabato mattina, e in quindi, cui c'è scritta questa frasettina qui. Io proverei a facciamo i cattivi, glielo mandiamo siccome, noi Elena, no, magari, ma secondo me sul, lo può trovare su internet sul sito internet di Popolare Vicenza ci può essere il comunicato stampa. Io andrei con quello e direi adesso cosa vogliamo fare, Elena, e poi ci racconti naturalmente come va a finire. Eccoci di nuovo in diretta a Salvadanaio con la moratoria dei mutui. Allora, dottor D'Agata, BNL BNP Paribas, le volevo chiedere un commento un po' su queste figure di lavoratori atipici che a quanto pare molto spesso difficilmente vengono ricomprese nelle categorie aventi diritto a sostegni di qualsiasi tipo, paradossalmente, eppure sono le prime che pagano. Crisi pesanti anche come quella che stiamo vivendo. Per quello che riguarda la vostra politica, quale avete adottato? E poi ci interessa capire, nel momento in cui un cliente sospende il mutuo con voi, e ricordiamo, voi sospendete il pagamento della sola quota capitale, nel momento in cui si ricomincia a pagare, questa quota capitale come viene restituita? La spalmate sul piano di ammortamento residuo? Cosa succede? Allora, i lavoratori atipici sono in qualche modo inseriti all'interno della moratoria, quindi sono inclusi i lavoratori parasubordinati, quindi i lavoratori che hanno rapporto di agenzia, rappresentanza commerciale, inseriti in un contesto di collaborazione coordinata e continuativa. Però ricadono nell'accordo della moratoria qualora abbiano perso il lavoro. Il caso in questione della signora che abbiamo sentito in diretta in realtà è un caso di riduzione della capacità di reddito. Noi per trattare questi casi, che comunque sono importanti sia numericamente, abbiamo costruito delle unità apposite che chiamiamo agenzie di negoziazione amichevole. Sono delle persone addestrate proprio a trovare delle soluzioni di ridefinizione del piano di ammortamento che rendano il piano di ammortamento del mutuo compatibile con le esigenze mutate dei lavoratori in questione. Nel caso, la seconda parte della sua domanda, quindi cosa succede alla quota capitale che non viene pagata nei 12 mesi, per noi avviene una traslazione del piano di ammortamento, cioè componenti della rata, quindi le 12 quote capitali, vengono poste alla fine del piano di ammortamento. Mm-hmm. Una persona che ha bisogno di chiedere la sospensione da voi, dottor D'Agata, deve presentarsi allo sportello con quale documentazione e che tempi medi di istruttoria prevedete, visto che comunque la modulistica sarà uguale per tutti? Se si perde il posto di lavoro, credo che bisogna presentare la documentazione che attesti l'avvenuto licenziamento piuttosto che altro. Non è moltissima la documentazione, visto che i parametri sono abbastanza ridotti ma molto chiari, e quindi insomma che cosa prevedete anche in termini di produttività dei vostri sportelli? Sì, noi abbiamo reso edotte le nostre agenzie appunto con la modulistica standard e i documenti che sono da presentare, che sono relativi ovviamente alla causa per la quale si richiede la sospensione. quindi sono molto specifici, adesso non li elencherei, sì. Però le nostre agenzie sono a pieno supporto per assistere. Allora, c'è un meccanismo molto, molto utile, credo, per assicurare i tempi a chi chiede la moratoria, che è il silenzio assenso, cioè se entro 15 giorni non viene data notizia al richiedente di cause ostative rispetto alla richiesta, l'adesione è automatica. Quindi ma questo è diciamo una cosa vostra interna, non mi pare che sia contemplato questo punto nel piano famiglie. Noi ci siamo dati questa regola. No, buona sapersi, insomma. E questo diciamo fa sì che nei 45 giorni successivi, 45 dal momento della richiesta, poi si facciano tutte le attività che fanno sì che il mutuo poi che ci sia la vera e propria sospensione della rata dal 45esimo giorno. Maximilian, volevi chiedere qualcosa su questi punti che ci sono nuovi anche per quello che riguarda proprio la tempistica di risposta alle domande. BNL dice insomma se entro 15 giorni lavorativi, immagino quindi 3 settimane mettiamo, non hanno risposta ai clienti dalla banca, significa che la pratica non viene accolta. No, questo significa che viene accolta, silenzio assenso. Giustamente, infatti. Sì, questo è interessante, non era contenuto nell'accordo, ma fa parte di tutto quanto possa essere migliorativo. Qui poi vedremo, noi monitoreremo, non solo noi, ma io credo che, anzi sicuramente sarà messo in piedi un tavolo di osservazione tra ABI e associazioni dei consumatori per vedere poi come va effettivamente questo tipo di agevolazione. Il rischio, e lo scrivevamo anche ieri sul giornale, è che ci possono essere degli intoppi, come è avvenuto per esempio con altre agevolazioni tipo il tetto al 4% o la portabilità a costo zero. L'intoppo si è chiamata Agenzia delle Entrate e poi progressiva anche riduzione dei tassi. Il fatto che in questo caso l'ABI sia scesa in campo sono proprio loro i protagonisti, mi fa ben pensare, perché insomma su questa tipo di agevolazione, su questo piano famiglie, è un'iniziativa molto importante e credo che le banche si giochino anche molta della loro credibilità nei confronti dei mutuatari. Allora sentiamo Gerardo D'Alecco anche, buongiorno. Buongiorno, senta, la mia domanda era questa, cioè non è per me, è per mio figlio che ha un mutuo a tasso variabile, ha iniziato pagando 500 euro al mese, poi era andato fino a 749, sì. Con l'abbassamento dei tassi adesso paga 530 euro, la mia domanda era questa, dunque se lui sospende per un anno, sì. No, perché ha comunque delle difficoltà, questo pagamento, poi queste rate che dovrebbe pagare alla fine, mi sembra di aver capito, alla fine alla scadenza del mutuo, verranno calcolate gli interessi sugli interessi in quel momento attivi o cosa? Cioè non è che alla fine del mutuo c'ha 12 rate da 535 euro, saranno 12 rate con gli interessi attivi in quel momento lì. Intanto esatto Gerardo, proprio ci stavamo rubando vicendevolmente la domanda con Maximilian Celino. Dipende intanto dal tipo di proposta che le fa la banca, perché può decidere di sospendere interamente la rata oppure di sospendere solamente la quota degli interessi o la quota capitale. Con che banca ha il mutuo suo figlio? È una banca credito cooperativo. E qui tra l'altro, se andate a scaricare la lista sul sito dell'ABI di tutte le banche che hanno aderito alla moratoria, troverete praticamente al 90% questa lista composta dal credito cooperativo, perché sono tutte piccole banche sul territorio e ognuna si comporta in maniera diversa, per cui in realtà il criterio generale, Maximilian, non ce l'abbiamo. Facciamo delle ipotesi. Comunque io allora le posso dire, gli interessi, mettiamo che sospenda l'intera, se sospende soltanto la quota capitale, nei prossimi 12 mesi si paga gli interessi che vengono a maturare nei prossimi 12 mesi, quindi sostanzialmente bassi, è quello esatto. Che le voglio sapere, quindi se ha un mutuo a tasso variabile abbastanza relativamente bassi, 1.500 perché... euro di residuo che verrà spalmato nei mesi successivi. Se invece allora questo, se lei sospende soltanto la quota capitale nei prossimi 12 mesi non paga zero, ma si paga la quota interessi, che sono relativamente bassi, visto che l'Euribor rimarrà ragionevolmente, se non raso terra come adesso, non proprio molto, molto, molto alto. E se invece sospende l'intera rata, si troverà a dover rendere dal 13° mese in poi delle rate maggiorate del tasso di interesse che è maturato nei prossimi 12 mesi, quindi anche in questo caso non altissimo. Ecco, e qua bisogna vedere come le banche si comporteranno, perché il rischio ci sono, che la prima rata post sospensione sia molto alta. Però io ho visto ci sono molte banche che sono consapevoli di questo problema e che hanno deciso di spalmare, passatemi questo brutto termine, gli interessi durante tutta la durata del mutuo, tutta la durata residua del mutuo. Per cui se è un mutuo, mettiamo che ha ancora una durata residua di 20 anni, per fare una cosa semplice, viene con rate mensili, viene spalmato su 20 per 12, su molte rate. Insomma, quindi Gerardo, anzi 240 figlio, rate, deve insomma, chiedere esattamente allo sportello che intenzioni ha applicando i termini della moratoria e quindi soprattutto che tipo di restituzione chiede, che tipo di sospensione fa, se è integrale o parziale o quota capitale. Ricordo che deve essere in uno di quei casi contemplati dall'accordo, cioè aver perso il lavoro o in cassa integrazione. Chiudiamo con una considerazione di Massimo da Roma, che non ha bisogno di sospendere il mutuo, ma fa una appello a tutti coloro che non si trovano proprio in condizioni, come dire, economiche disastrate, passatemi questo termine, a resistere, come diceva un famoso procuratore di Milano, Massimo? Giustissimo. Rapidissimo, buongiorno. Se ce la fa, grazie, stiamo chiudendo. Sì, volevo soltanto appunto dire questo, che chi non è in grossissima difficoltà non si faccia tentare, specie se a tasso variabile, diciamo, perché... probabilmente in un momento come questo, che i tassi sono molto bassi, forse pagare un mutuo a tasso variabile non è mai stato così conveniente. Si restituisce una bella fetta di quota capitale, Massimo, lo so, però il problema, io guardi, sono d'accordo con lei, però bisogna essere anche nelle condizioni emotive di resistere se si è perso il posto di lavoro e non si ha l'entrata per poter restituire anche quel poco. Comunque, insomma, magari a quelli che non hanno proprio condizioni radicalmente cambiate dal punto di vista economico, prendiamo atto del suo suggerimento e glielo giriamo volentieri. Massimo, buona giornata. Grazie. Noi abbiamo terminato, peraltro. Io saluto Alessandra Pissinis Bancasella, sperando di aver detto tutto, ma in ogni caso io ho visto sul sito ci sono tutte le informazioni dedicate a chi vuole aderire al piano famiglie. Dottoressa Pissinis, buona giornata. Buona giornata a voi, arrivederci. Grazie, ancora presto. Grazie anche ad Alessandro D'Agata di BNL Bempe Paribas, buona giornata. Buona giornata a tutti. Maximilian, ci risentiamo presto, tanto lo sai che ti veniamo spesso a strattonare dalla tua postazione al piano di sopra. E noi di Salvadanaio abbiamo terminato, torniamo domani e parliamo di un'altra bella rogna che le associazioni dei consumatori stanno gestendo, quella delle polizze dormienti, che molti titolari non hanno più diritto di riscattare né alle poste né presso una grande compagnia di assicurazione. A domani.